sono Ivan de Graaf, Aerosol Grey Machine. Van de Graaf, un gruppo tedesco naturalmente. Tedesco perché oggi appunto parleremo della Germania e direi di dare subito la parola alla nostra ospite tedesca, Esbeth, che mi pare è venuta in Italia 5 anni fa e appunto volevo chiederle di parlarci della sua prima esperienza qui in Italia. Dunque, io sono venuta in Italia la prima volta circa 5 anni fa, sono andata a Perugia per fare un corso di italiano, no? Perché avevo già l'intenzione di studiare in Italia, perché da noi in Germania c'è il numero chiuso, volevo sempre fare appunto veterinaria, invece là in Germania non mi hanno preso. Beh, allora sono venuta qui. Allora sei venuta in Italia per motivi di studio. Appunto volevo chiederti come ti sei trovata, dato che tu non conoscevi nemmeno una parola d'italiano, no? Un po' di italiano l'avevo imparato a Perugia, no? E quel poco mi bastava per comunicare, cioè almeno il poco indispensabile lo parlavo già quando sono venuta. Venuta cioè a Bologna per studiare. E poi io mi sono inserita abbastanza presto in mezzo degli italiani e poi ho avuto la casa anche insieme con delle altre ragazze che erano trentine, però il tedesco non lo parlavano, allora mi sono arrangiata io. Senti, tu hai parlato dell'università tedesca e di quella italiana, cioè volevo chiederti se sei capace di fare un po' la differenza per questi due istituti. Beh, è una domanda che bisognerebbe precisare, no? Cioè, l'università in Germania è un'altra cosa perché c'è meno gente, c'è il numero chiuso, così, no? E poi tutti i movimenti che ci sono all'università italiana in Germania non ci sono più. E che impressione ti hanno fatto questi movimenti, come li hai chiamati? Sì, movimenti, i primi tempi, cioè io mi sono confusa molto, per i scioperi così, no, non capivo, c'era cioè la segreteria chiusa, eccetera, poi non si faceva lezione, non, cioè per me è una cosa, non so, un po' fuori della realtà, no? Perché da noi tutti gli statali, cioè tutte le scuole non possono mica scioperare, no? Cioè è fuori legge. Ho capito. Beh, abbiamo parlato dell'Italia, quindi con Esbeth mandiamo quindi un pezzo che ci sta a pennello. Si tratta di Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Viva l'Italia! L'Italia liberata! L'Italia del valzer e l'Italia del caffè. L'Italia derubata e colpita al cuore. Viva l'Italia, l'Italia che non muore. Viva l'Italia, presa a tradimento. L'Italia assassinata dai giornali e dal cemento. L'Italia con gli occhi asciutti nella notte scura. Viva l'Italia, l'Italia che non ha paura. Viva l'Italia, l'Italia che è in mezzo al mare. L'Italia dimenticata e l'Italia da dimenticare. L'Italia metà giardino e metà galera. Viva l'Italia, l'Italia tutta intera. Viva l'Italia, l'Italia che lavora. L'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna. Viva l'Italia, l'Italia sulla luna. dicendo. L'Italia con le bandiere, l'Italia nuda come sempre. L'Italia con gli occhi aperti nella notte triste. Viva l'Italia, l'Italia che resiste. Era Viva l'Italia di Francesco De Gregori. Continuiamo e lasciando la parola ancora una volta a Esbeth. Beh, io ho studiato 3 anni a Bologna, poi mi sono trasferita e adesso studio in una cittadina, ben dico cittadina, vicino a casa mia, e là studio sempre quello, sempre veterinaria, ma là i problemi sono, anche se gli studenti sono molto meno di numero, sono gli stessi, no? Per esempio anche a Gießen è molto difficile trovare la casa, così. Poi dei movimenti politici, la cosa è un po' simile, cioè a Bologna, volevo dire che alle facoltà scientifiche uno se ne accorge di meno, no? Per esempio tutte le altre facoltà scioperano, c'è più casino così, ma invece a veterinaria, a medicina è tutto più chiuso, più. Vorrei che tu ci parlassi ora un po' dell'università in Germania specialmente. Ma dunque l'università in Germania, cioè, ha tutta un'organizzazione un po' diversa, no? Per esempio direi che tutto, cioè, il nostro studio è più regolato, no? Abbiamo più ore, poi ci sono molte lezioni dove bisogna essere presente per forza perché c'è uno che controlla così. E io quando vado a lezione, cioè da noi ci sono i semestri, non c'è l'anno accademico come qui, ci sono molte ore che devo starci per forza, no? Perché altrimenti non mi ammettono agli esami così. Allora, tu come tua esperienza personale all'università ti sei trovata meglio qui in Italia? O no? Sì, ma all'università dico, cioè, qui in Italia quello che mi piaceva era l'ambiente, no? Io a Bologna avevo la casa insieme con 3 altre ragazze, ben poi eravamo anche in 4, ma così mi sono divertita, così come ambiente, qua mi sono trovata molto bene. E mi è dispiaciuto molto quando ho dovuto andare via. Sono ancora Van de Graaff con Aquarian. Can't stop for a second. We might see how silly we all are. Can't get out even for a moment. Might be hit by a passing car. Turn fall into dust. As long as we're traveling, I suppose they must. But while we're on the road, our days will be glowing. When we part, as you know we must, we'll leave just going ever so slowly. Ever so slowly. Ever so slowly. Mm-hmm. a sweet ride while we're still together. Walk on to land and still cling to my hand if you still want to. Se ti ho ascoltato questo pezzo di Van de Graaff, vorrei prendere un attimo la parola io, no? Perché volevo fare una domanda a Lesbe. Dopo che abbiamo parlato così abbastanza diffusamente dell'università e dell'ambiente studentesco in Germania e in Italia, abbiamo fornito un quadro così abbastanza esauriente, direi. Vorrei chiedere, visto che alla fine del suo intervento ha detto appunto che si è trovata bene in Italia perché ha conosciuto gente, perché insomma si è inserita bene, io vorrei sapere così cosa le è piaciuto di più della gente italiana, diciamo, se ha trovato positivo questo rapporto, come mi sembra di aver capito. Cos'è che ti ha impressionato maggiormente e positivamente della gente italiana? Ma direi che qui la gente, cioè, è molto più gentile e più aperta come da noi, no? Cioè io ho trovato, cioè, quasi tutti si interessavano a cosa facevo in Germania, dove abito, così, le nostre abitudini. E in Germania la gente è già più chiusa, più, non so, e ben poi c'è anche il fatto che qui la gente, cioè se uno chiede qualcuno per strada qualcosa, no? E poi ha sempre una risposta gentile, direi, no? Da noi in Germania non è mica sempre il caso così, sono sempre tutti più in fretta, tu, non so se mi spiego. Sì, sì, vabbè, almeno abbiamo capito qualcosa che degli italiani forse noi non ci eravamo mai resi conto. Un'altra cosa, abbandonando un attimo questo argomento che poi magari riprenderemo quando io potrò al limite parlare della mia esperienza in Germania, volevo chiederti appunto, visto che tu hai girato l'Italia in lungo e in largo, cioè sei stata tra l'altro anche in Sicilia, a Roma, e hai visitato un pochino così, diciamo, le bellezze tra virgolette del nostro paese. Volevo sapere cosa hai trovato di bello, cosa invece hai trovato di meno bello in quest'Italia che un pochino da tutti viene giudicato uno dei più bei paesi d'Europa, se è veramente così o se invece ritieni che non sia il caso di definirla il fiore d'Europa come sovente si dice. Ma devo dire che io, cioè, ho girato ma per poco tempo, no? Sono andata giù, cioè nel meridione, per neanche 2 settimane, così sono andata a Napoli, a Capri, Pompei, cioè sono andata dappertutto, cioè ai luoghi più belli, no? Che si conoscono così, e ben non posso dire quello che mi è piaciuto di più, quell'altro così, cioè io sono rimasta impressionata, no? Comunque Helga, scusa, sei stata a Roma, vero? Volevo chiederti, i romani ti sono piaciuti? Ma devo dire che con la gente, cioè, non ho avuto, cioè, dei contatti particolari, non ci sono andata o con qualcuno della Germania che era venuto a Bologna a trovarmi e siamo andati a Roma, poi da Perugia sono partita anche con un'altra straniera, così, non posso dire i romani sono così o così. Vabbè, comunque sembra invece che Alberto Fortis non siano molto piaciuti. E vi odio voi romani, io vi odio tutti quanti, brutta banda di ruffiani ed intriganti, camuffati bene o male da intellettuali e santi. Io vi occhio a voi romani tutti quanti, la la la li, ya la la li, ya la la ya la. Siete falsi come Giuda, e servi Giuda un complimento, e vivete ancora da essere anticristo, e trattate gli altri come i vostri nonni coi cristiani. Io vi odio a tutti quanti voi romani, mamma lupa poveretta si è svenata con i denti, il giornale ha riportato con stupore, non poteva sopportare che il suo popolo invasore diventasse una colonia di invadenti. E vi odio a voi romani, io vi odio tutti quanti, distruttori di finanze nati stanchi, siete un peso alla nazione, siete proprio brutta gente. Io ti odio, grande Roma, decadente. Sui tombini delle fogne, come tanti scudi antichi, scrivete ancora SPQR, ma guardatevi ad dottori, siete molli come fichi, e poi andiamo, non è più tempo di guerra. Quello che state ascoltando è A voi romani di Alberto Fortis. Devo dire che così è abbastanza curioso, e questo accoppiamento che Carla ha fatto tra Viva l'Italia e questa canzone dove appunto Fortis denigra al punto massimo il popolo romano, no? Beh, detto questo, direi che potrei partire a parlare un attimo della mia esperienza, tra l'altro piuttosto breve e quindi non esauriente come quella della Elsbeth, del mio viaggio in Germania. Io sono stato così invitato quest'estate da Elsbeth a casa sua, un paese di campagna, direi, no, un paese di campagna nella regione dell'Essen. E devo dire così che la cosa che più mi ha colpito in questi 10 giorni di permanenza è stata un pochino la gente, no? Perché io me la figuravo un po', e penso che non sia un'impressione soltanto mia, un po' così dura, un po' poco disposta al dialogo, anche all'amicizia forse, no? E infatti anche Elsbeth prima diceva che sì, gli italiani sono più aperti, sono più gentili, anche più cordiali. A me è sembrato tutto sommato che, scusate questo microfono qua, mi è sembrato tutto sommato che i tedeschi siano invece abbastanza aperti, no? Abbastanza cordiali, anche se sì, durante il giorno si vedono pochino, direi, anche la stessa famiglia dell'Elsbeth spesso erano molto indaffarati col lavoro, nella stalla, una cosa e l'altra, no? Quindi durante il giorno c'è poca possibilità di incontrarsi, poca possibilità di parlare, no? Appunto perché sono molto, una vita molto frenetica mi sembra quella che conducono. E invece li ho visti estremamente gioviali, estremamente disposti al gioco, allo scherzo, così, specialmente in una festa che abbiamo avuto modo, Wesley sta ridendo perché evidentemente sta ricordando quella sera famosa. È una sera in cui siamo andati in un paese vicino, un paese vicino a casa sola, dove si teneva appunto una festa. Diciamo, queste feste che loro tengono in estate sono più o meno l'equivalente dei nostri festival dell'unità, dell'avanti, dell'amicizia, no? Però non hanno connotazioni politiche, Assolutamente. E, così, in queste feste sono vere e proprie sagre paesane, direi anche paesi estremamente piccoli, in cui ci si ritrova tutti così a, innanzitutto a bere birra, perché si vedono tanti di quegli ettolitri di birra viaggiare queste sere, che è una cosa impressionante, e poi così a ballare, a scherzare, che veramente uno si stupisce di come cambi la gente, no? Veramente c'è una specie di metamorfosi in queste persone. Però direi che la mia impressione è estremamente positiva della gente tedesca, anche se ero partito, devo dire, con una con un preconcetto, no? Ero abbastanza così poco convinto che la gente tedesca sarebbe risultata poi quello che mi è sembrato, ecco. È partito intanto l'ultimo brano per oggi. Sono sempre i Van de Graaff e questo è Into a Game. I want to paint you long poems for love. Cioè, a questo punto siamo ormai arrivati alle 16:30, nel caso di continuare il discorso ci sarebbero tante altre cose da dire, benché, ripeto, la mia esperienza è stata abbastanza limitata nel tempo, no? Tutto sommato si potrebbe parlare, non so, anche dell'ambiente, dell'ecologia in Germania, non so, le impressioni di un viaggiatore, no? Questo magari lo faremo in un'altra trasmissione, se Carla avrà la voglia e così di invitarci ancora. Appunto, su questo brano io ringrazio i nostri ospiti Stefano e Esbet, e naturalmente li richiamerò se avranno appunto la voglia di ritornare qui on the road. Dicevo, ringraziavo gli ospiti, salutavo naturalmente tutti i radioascoltatori. On the road è finito, risentirci a giovedì prossimo. Ciao a tutti. Ciao. Ciao. Scared of dying again to live. And meanwhile I must endure all your red copper hair, screaming like a